Capitolo 167. Il cavallo di legno. Prilide, ispirato da Atena, propose allora che i greci entrassero in Troia servendosi di un cavallo di legno. Ed Epeo, figlio di Panopeo, un focese di Parnasso, si offrì di costruirne uno sotto la direzione di Atena. In seguito, naturalmente, Odisseo rivendicò tutto il merito di quello stratagemma. Epeo era giunto a Troia dalle Cicladi con 30 navi. Egli aveva l'incarico di acquaiolo per la casa di Atreo, come si vede in un fregio del tempio di Apollo a Cartea, ma benché fosse abilissimo pugile e geniale artigiano, era nato codardo. Così vollero gli dei per punire le impietà di suo padre. Panopeo, infatti, aveva giurato su Atena di non aver sottratto parte del bottino conquistato da Anfitrione ai tafi, il che era falso. La vigliaccheria di Epeo divenne ben presto proverbiale. Egli costruì un enorme cavallo di legno di faggio, vuoto all'interno, con una porticina mascherata in un fianco e una scritta a lettere cubitali sull'altro, dove si diceva che il cavallo era consacrato ad Atena. In segno di gratitudine anticipata per un felice ritorno in patria, i greci dedicano questa offerta alla dea. Odisseo indusse i più valorosi tra i greci a raggiungere la porticina con una scala a corda e a introdursi completamente armati nel ventre del cavallo. Si dice che fossero in 23 o in 30 o in 50 o, ipotesi davvero assurda, in 3.000. Tra costoro erano Menelao, Odisseo, Diomede, Stenelo, Acamante, Toante e Neottolemo. Adulato, minacciato e infine lusingato con doni, anche Epeo si unì al gruppo. Salì per ultimo, arrotolò la scala a corda e, poiché egli solo sapeva come funzionasse il meccanismo della porticina, la richiuse. Al cadere della notte, i greci rimasti al campo con Agamennone seguirono le istruzioni di Odisseo, cioè diedero fuoco alle tende, spinsero le navi in mare e rimasero in attesa al largo di Tenedo fino alla sera seguente. Soltanto Sinone, primo cugino di Odisseo e nipote di Autolico, si appostò sulla spiaggia per fare segnali luminosi alle navi e invitarle a tornare. All'alba del dì seguente, le sentinelle troiane riferirono che l'accampamento greco era ridotto in cenere e che i greci erano partiti, lasciandosi alle spalle un enorme cavallo di legno. Priamo e alcuni dei suoi figli uscirono di città per andarlo a vedere. Mentre lo fissavano ammirati, Timete per primo ruppe il silenzio. «Poiché si tratta di un dono ad Atena», disse, «propongo che lo si porti in Troia e lo si eriga sulla cittadella». «No, no», gridò Capi, «per troppo tempo Atena ha favorito i greci. Dobbiamo bruciarlo subito oppure sfasciarlo per vedere che cosa contiene». Ma Priamo dichiarò, «Timete ha ragione. Bisogna trascinare in città il cavallo su dei rulli. Nessuno deve commettere sacrilegio contro la proprietà di Atena». Il cavallo era tanto grande che non fu possibile farlo passare dalle porte. Aperta una breccia nelle mura, i troiani, con uno sforzo immane, lo spinsero su fino alla cittadella, ma tuttavia ebbero il buon senso di richiudere la breccia alle loro spalle. Scoppiò un'altra violenta discussione quando Cassandra annunciò che il cavallo conteneva uomini armati, e le sue parole furono confermate dal veggente Laocoonte, figlio di Antenore, che alcuni erroneamente dicono fratello di Anchise, gridando «Oh sciocchi! Non fidatevi mai dei greci e tantomeno dei loro doni!» Egli scagliò la lancia che si conficcò vibrando nel ventre del cavallo mentre all'interno echeggiò un clangore di armi. Si alzarono grida tutt'attorno, «Bruciatelo! Gettatelo giù dalle mura!» mentre i partigiani di Priamo invocavano la calma. Le discussioni furono interrotte dall'arrivo di Sinone, trascinato in ceppi da un paio di soldati troiani. Interrogato, egli disse che Odisseo aveva tentato di ucciderlo perché conosceva il segreto della morte di Palamede. I greci, continuò, erano stanchi di combattere e sarebbero salpati molti mesi prima se non ne fossero stati impediti dal persistente maltempo. Apollo li aveva consigliati di placare i venti con un sacrificio cruento, come già avevano fatto in Aulide. «E allora», continuò Sinone, «Odisseo spinse avanti Calcante e gli chiese di eleggermi come vittima. Calcante non volle pronunciarsi subito. e chiese di poter meditare per 10 giorni, al termine dei quali, indubbiamente prezzolato da Odisseo, entrò nella tenda del concilio e mi indicò con la mano tesa. Tutti i presenti accolsero con acclamazioni il suo verdetto, poiché ciascuno era in cuor suo felice di non essere stato prescelto come vittima espiatoria e io fui messo in ceppi. Ma ecco che un vento favorevole cominciò a spirare. I miei compagni in gran fretta spinsero in mare i vascelli e nella confusione che seguì riuscii a fuggire. Priamo fu tratto in inganno dalle parole di Sinone e lo accolse come supplice, ordinando che gli fossero tolti i ceppi. «E ora dici quanto sai sul conto di questo cavallo?» chiese poi il re cortesemente. Sinone spiegò che i greci si erano alienati il favore di Atena, da cui dipendevano le loro sorti, quando Odisseo e Diomede avevano rubato il palladio dal suo tempio. Non appena fu portato al campo, il simulacro per ben 3 volte fu avvolto dalle fiamme e cominciò a trasudare in segno della collera della dea. Calcante allora consigliò ad Agamennone di tornare in Grecia per organizzare una nuova spedizione sotto migliori auspici, lasciando il cavallo dinanzi a Troia come un dono propiziatorio per Atena. «Ma perché l'hanno costruito così grande?» chiese Priamo. Sinone, che era stato imboccato da Odisseo, replicò: «Per impedire che voi lo trascinaste dentro le mura della città. Calcante ha predetto che se voi profanerete questo simulacro, Atena distruggerà Troia, ma se si ergerà sulla vostra cittadella, estenderete il vostro potere su tutta l'Asia, invaderete la Grecia e conquisterete Micene.» «Queste sono bugie!» gridò Laocoonte, «e suonano come se fossero state inventate da Odisseo. Non credergli, Priamo!» E aggiunse: «Ti prego, mio signore, permetti che io sacrifichi un toro a Posidone. Quando tornerò qui, spero di vedere il cavallo ridotto in cenere.» Bisogna spiegare che i troiani, dopo aver lapidato il sacerdote di Posidone 9 anni prima, avevano deciso di non rimpiazzarlo finché la guerra volgesse alla fine. Scelsero dunque Laocoonte per propiziarsi Posidone. Egli era già sacerdote di Apollo Timbreo, ma aveva irritato il dio sposandosi e generando figli, benché avesse fatto voto di celibato e, peggio ancora, giacendosi con la moglie Antiope dinanzi al simulacro di Apollo. Laocoonte si appartò per scegliere la vittima da sacrificare, ma come segno premonitore dell'imminente caduta di Troia, Apollo fece giungere da Tenedo e dalle isole Calidnie 2 grandi serpenti marini, chiamati Porcete e Caribea, o Curissia o Peribea. Essi guizzarono fulminei sulla riva e, avvolgendo nelle loro spire i figlioletti gemelli di Laocoonte, Antifate e Timbreo, che altri chiamano Melanto, li stritolarono a morte. Laocoonte si precipitò in soccorso dei fanciulli, ma perì anch'egli miseramente. I serpenti poi salirono alla cittadella e, mentre uno di essi si accovacciava ai piedi di Atena, l'altro si rifugiò dietro la sua egida. Taluni tuttavia dicono che soltanto i 2 figli di Laocoonte furono uccisi dai serpenti, mentre egli morì nel tempio di Apollo Timbreo, e altri che sfuggì addirittura alla morte. Questo terrificante prodigio convinse i troiani che Sinone aveva detto il vero. Priamo erroneamente suppose che Laocoonte fosse stato così punito perché aveva scagliato la lancia contro il cavallo di legno e non perché aveva offeso il dio Apollo. Senza por tempo in mezzo, dunque, dedicò il cavallo ad Atena, e benché Enea e i suoi compagni si rifugiassero allarmati nelle loro capanne sul monte Ida, quasi tutti i troiani cominciarono a celebrare la vittoria con banchetti e festeggiamenti. Le donne colsero fiori lungo la riva del fiume, inghirlandarono la criniera del cavallo e sparsero un tappeto di rose attorno ai suoi zoccoli. Frattanto, nel ventre del cavallo, i greci tremavano di paura, ed Epeo piangeva in silenzio, terrorizzato. Soltanto Neottolemo non mostrò veruna emozione, nemmeno quando la punta della lancia di Laocoonte penetrò nel legno proprio sopra la sua testa. Più e più volte incitò Odisseo a ordinare l'attacco, poiché Odisseo si era assunto il comando, e stringeva in modo minaccioso la lancia e l'elsa della spada. Ma Odisseo non gli diede retta. Al calar della sera Elena uscì dal palazzo per passeggiare e girò 3 volte attorno al cavallo. battendogli la mano sui fianchi. Poi, quasi volesse divertire Deifobo che l'accompagnava, provocò i greci nascosti imitando via via la voce di ciascuna delle loro mogli. Menelao e Diomede, accovacciati al centro del cavallo vicino a Odisseo, furono tentati di balzar fuori quando si sentirono chiamare per nome, ma Odisseo li trattenne e, vedendo che Antielo era sul punto di rispondere, gli tappò la bocca con la mano o, secondo alcuni, lo strozzò. Quella notte, esausti per la chiassosa veglia, i troiani dormirono di un sonno profondo e nemmeno l'abbaiar di un cane ruppe il silenzio. Ma Elena non dormiva e una grande lampada ardeva nella sua stanza come segnale per i greci. A mezzanotte, poco prima che si alzasse la luna piena, ed era la settima luna dell'anno, Sinone sgusciò fuori dalla città per accendere un falò sulla tomba di Achille e Antenore agitò la torcia. Agamennone rispose a tali segnali dando fuoco a rami secchi di pino ammucchiati in un braciere sul ponte della sua nave, che si trovava a pochi tiri d'arco dalla costa. E l'intera flotta drizzò la prua verso la spiaggia. Antenore, avvicinatosi cautamente al cavallo, sussurrò che tutto andava bene e Odisseo ordinò a Epeo di fare scattare la porticina. E Chione, figlio di Porteo, balzando fuori per primo cadde e si ruppe l'osso del collo. Gli altri discesero lungo la scala a corda di Epeo. Alcuni corsero ad aprire le porte dinanzi all'esercito sbarcato, altri sgozzarono le sentinelle assopite che custodivano la cittadella e il palazzo. Ma Menelao non pensava che a Elena e si precipitò verso la sua casa. I commentatori classici di Omero non si dimostrarono entusiasti della leggenda del cavallo di legno. Supponevano invece che i greci avessero usato una macchina bellica a forma di cavallo per abbattere le mura, oppure che Antenore facesse entrare i greci in Troia da una porta secondaria su cui era dipinto un cavallo, oppure che l'emblema del cavallo fosse stato usato dai greci per distinguere i loro compagni dai nemici nell'oscurità e nella confusione della battaglia, oppure che, quando Troia fu invasa, gli oracoli proibissero ai greci di saccheggiare le case contrassegnate dall'emblema del cavallo e così vennero risparmiate le dimore di Antenore e di altri, oppure che Troia cadesse in seguito a un attacco di cavalleria, oppure che i greci, dopo aver dato alle fiamme il loro accampamento, si nascondessero dietro il monte Ippio del cavallo. È molto probabile che Troia sia stata conquistata grazie a una torre mobile di legno, ricoperta nella parte anteriore da peli di cavallo bagnate per proteggerla dal lancio di dardi infuocati e spinta verso il punto più debole delle mura, cioè verso l'ala occidentale costruita da Eaco. Ma ciò non basta a spiegare la leggenda dei capi greci nascosti nel ventre del cavallo. Forse gli Omeridi inventarono questo particolare per illustrare una raffigurazione ormai poco intelligibile di una città fortificata, una regina, un'assemblea di notabili e il re sacro nell'atto di rinascere, la testa per prima, da una cavalla che era l'animale sacro sia ai troiani sia agli eacidi. Una cavalla di legno di faggio, l'albero della nascita, fu probabilmente usata per questa cerimonia, così come una vacca di legno facilitò le nozze sacre tra Minosse e Pasifae. E la lotta tra Odisseo e Antielo fu forse dedotta da una raffigurazione dei gemelli mentre litigano nel ventre della madre. La leggenda del figlio dei figli di Laocoonte ricorda quella dei due serpenti strozzati da Eracle. Secondo certe versioni, la loro morte si verificò nel tempio di Apollo, e Laocoonte stesso, come anfitrione, riuscì a fuggire illeso. Può darsi che i serpenti in verità si limitassero a sfiorare le orecchie dei fanciulli, investendoli così di poteri divinatori. Antifate evidentemente significa profeta, colui che parla per bocca del dio. Da un punto di vista religioso, questa guerra fu combattuta tra Afrodite, la troiana dea del mare, e il greco dio del mare Posidone. Ecco perché Priamo avrebbe soppresso il collegio dei sacerdoti di Posidone. E i simulacri che trasudano furono un fenomeno frequente dalla caduta di Troia in poi. In seguito le statue degli dei romani stillarono sudore per annunciare pericoli imminenti e così fecero poi i santi cattolici che ne presero il posto. Nel mito antico Epeo ebbe tale fama d'uomo valoroso che il suo nome divenne ironicamente sinonimo di spaccamontagne, e da spaccamontagne a codardo il passo è breve.